Non è una bella bim bam ba. Ne rum bam ba, ne bam bam ba. Ma un po' di conga e sam bam ba. Ingresa cha, la cha cha. Danzando cuori e braccia cha. Sto cha cha, ne bru cha cha. Ma scaccia ogni pensier. Uè! Dal barone al camerier, dalla cuoca al cavalier. Con piacere, per davver, tutti fa goder. Rum bam ba, rum bam ba. Regina della sam bam ba. Sam bam ba, gam bam ba. Per fare il gambettar. Uè! Barone al camerier, dalla cuoca al cavalier, con piacere, per davvero, tutti fanno te. Corumbamba, corumbamba, regina della frambamba, sei frambamba, mai gambamba, per fare il gambetta. Uè!